Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come fare per proteggere un'opera originale e distinguerla da una eventuale copia contraffatta? Alcuni ricercatori di Elettra Sincrotrone di Trieste hanno messo a punto un marchio invisibile all'occhio nudo che può essere apposto su un oggetto di valore identificandolo univocamente, senza possibilità che questo marchio venga contraffatto. Oggi questa tecnologia, denominata Invisible, è già stata impiegata su vari oggetti d'arte e sta ricevendo riconoscimenti a livello internazionale. Ne parliamo con Marco Peloi, che è responsabile dello sviluppo industriale di Invisible e anche di altri progetti del Sincrotrone di Trieste. Buonasera Peloi. Buonasera. Allora, senta, intanto ricordiamo velocemente che cos'è questo Sincrotrone. Sì, allora, un sincrotrone è un acceleratore di elettroni che serve per produrre una luce molto particolare, una luce che va dall'infrarosso fino ai raggi X e ha la possibilità appunto di essere modulata e ha delle caratteristiche che permettono di studiare i materiali. Questo è l'obiettivo, una delle attività che vengono fatte ad Elettra. Ecco, possiamo immaginarlo, una di quelle grandi macchine tipo il CERN, anche se questa è molto più piccola, credo che sia una settantina di metri di diametro, un grande anello, no? Dove sì, circolano questi elettroni. Un grande anello dove appunto circolano questi elettroni ed è una macchina sicuramente più piccola di quella che c'è al CERN. Ci spieghi allora brevemente come funziona questa procedura di marcatura? Allora, noi abbiamo sviluppato un materiale che è un sale di litio che utilizziamo diciamo normalmente nei nostri esperimenti. Questo materiale viene trattato utilizzando la luce di sincrotrone, sì, e se ne ricava una polvere che può essere utilizzata come additivo in un inchiostro. Questa polvere è fluorescente, giusto? È una polvere che, illuminata con una radiazione particolare, una lunghezza d'onda particolare, diventa fluorescente. Tipo quelle lampade a UV, no? Che si vedono usate dalle polizie scientifiche nei film, no? Qualcosa di simile? Sì, sì, è una lampada, è una luce di quel tipo, diciamo colore bluastro. Ecco, questa polvere come viene poi utilizzata? Allora, questa polvere può essere mescolata con qualche inchiostro e può essere utilizzata poi proprio come inchiostro per marcare gli oggetti che si vogliono proteggere. Quindi voi scrivete qualcosa sostanzialmente, un codice o qualcosa di questo genere, con questa polvere, abbiamo detto, invisibile. Ecco, ma perché questo marchio a questo punto è impossibile da contraffare? Perché questo marchio, se io lo osservo utilizzando uno strumento che va a vedere il colore della luce fluorescente che viene emessa, ha un colore particolare che può essere prodotto solo utilizzando luce di sincrotrone. Quindi quando io vado ad osservarlo, lo riconosco rispetto ad altri marchi prodotti con inchiostri diversi, non creati con la luce di sincrotrone. Ecco, perché ricordiamo che appunto abbiamo detto prima una macchina di 70 metri di diametro, il punto è che un sincrotrone uno non se lo può tenere o nascondere in cantina, no? Quindi non è che sia impossibile, ma è un po' improbabile che lo faccia una persona di nascosto, e questo è, sì, questo è improbabile il punto, no? In una struttura pubblica come un sincrotrone, ce ne sono diversi in Italia e anche nel resto del mondo, però è improbabile che una persona possa accedere a fare quello che vuole, questo strumento, no? Fare quello che vuole e andarsene. Senta, dove lo avete sperimentato finora? Allora, abbiamo fatto diverse sperimentazioni, una con il Museo Santa Giulia di Brescia, in cui abbiamo marcato alcune monete del loro tesoretto. Era un tesoretto celtico di monete molto simili tra di loro, che avevano delle grosse difficoltà ad essere riconosciute singolarmente, quindi questo metodo di marcatura ha permesso, oltre che la marcatura, anche la catalogazione, perché in questo modo era possibile appunto identificarle univocamente. E sì, tra l'altro sulle monete non ci sono alternative, non esistono attualmente forme di marcatura di nessun tipo, di nessun genere. Vero? L'unico modo che c'è per proteggere e identificare una moneta è quella di chiuderla all'interno di una custodia e chiudere la custodia con un sigillo. Con la ceralacca, praticamente è, sì, questo il concetto. E invece, sì, qui decisamente si tratta di un'alternativa più, più avanzata. Quindi monete, ma anche quadri, avete stoffe, sì, materiali di ogni tipo in realtà. Siamo riusciti a marcare diversi materiali, per esempio disegni, per esempio quadri, e in particolare abbiamo marcato un disegno del Tiepolo assieme al Comune di Udine, al Museo Civico del Comune di Udine, e sempre in questo contesto abbiamo marcato anche diverse statue di gesso oppure diverse tele di alcuni autori locali. Ecco, qui uno dei vantaggi è che questo inchiostro, questa polvere può essere mescolata a vari materiali e quindi si adatta praticamente a tutte le situazioni, a tutti i supporti possibili. Prossimi step che avete in mente? A che punto siete, ecco, dello sviluppo industriale di questa innovazione? Allora, noi pensiamo che il prodotto che siamo riusciti a sviluppare sia pronto e sia utilizzabile già da subito. Quello che stiamo cercando è qualcuno che sia interessato a fare di questo prodotto un prodotto da mettere sul mercato e quindi sia disponibile a sviluppare un business assieme a noi. Va bene, grazie. Grazie Marco Peloi e in bocca al lupo da questo punto di vista. Ecco, grazie a voi. È tutto, a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.